La Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino. Giornale Ridio, Casal Pustellengo 24. Eccoci di nuovo, rassegna stampa del Wombat, Wombat News, rassegna stampa come la volete chiamare. Ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno. Qui abbiamo un DJ che ha un nuovo nome finalmente, che ha trovato il suo nome, ovvero DJ Azio. Quindi ve lo presento ufficialmente, DJ Azio, finalmente non lo chiamiamo più Coso, quello... Tizio indeciso. Tizio, esatto, lo chiamiamo finalmente con il suo nome. Allora, buongiorno a tutti, lunedì 24 settembre e rassegna settimanale del Wombat, dove vi raccontiamo un po' di notizie che sono successe in questa settimana. In realtà vi abbiamo lasciato da soli per un bel po' di tempo, sicuramente per tutto agosto e anche per, se non sbaglio, per tutto settembre finora. Siamo stati un po' pessimi. Ci rifaremo. Sì, ci rifaremo e quindi vi diamo conto anche di non solo di sta settimana stretta, ma ci spingiamo un po' più là, vai, per farci perdonare, e vi raccontiamo qualcosina, anche se questo settembre e anche questo agosto di cose ne sono successe a milioni, e per farci perdonare dovremmo fare una rassegna stampa, penso, di una settimana, però non possiamo farlo e quindi ci concentriamo solo su alcune cose. Partiamo subito, direi, perché gli articoli sono abbastanza, più che altro sono lunghi e approfonditi, e quindi dobbiamo un po' sbrigarci. Partiamo subito con Radio Onda Rossa, Radio Onda d'Urto, Radio Onda d'Urto di Brescia, e da qui traiamo subito un articolo che è un po' un racconto di quello che è successo lo scorso fine settimana al Passamontagna, il corteo e l'iniziativa che c'è stata venerdì 21 settembre e sabato 22 alla frontiera sua, Clavier, Bardonecchia, da quelle parti là. L'articolo di Radio Onda d'Urto, Passamontagna contro gli autoritarismi e le frontiere, scritta appunto il 21 settembre, quindi ancora non parlava dell'intera notizia, ma insomma già iniziava a raccontarne un po'. Corteo anarchico e contro ogni frontiera oggi pomeriggio, venerdì 21 settembre, a Bardonecchia lungo la nuova rotta dei migranti. Al Meselet, frazione al confine con la Francia, dove in questi giorni è in corso il campeggio Passamontagna contro gli autoritarismi e le frontiere chiuse, si sono radunati centinaia di manifestanti per la marcia che nel pomeriggio è stata però bloccata dalle forze di polizia. Fermati 8 manifestanti sul lato francese, la protesta contro la Fortezza Europa si sposterà nei giorni successivi a Clavière. Ci ascoltiamo anche una corrispondenza con un compagno di Che Jesus, rifugio autogestito, che ci racconta un po', almeno fino a venerdì, come era andata la questione. Vi invito anche a guardare il podcast di Senza Frontiere, la trasmissione nostra di Radio Wombat, che ha fatto una lunga e interessante intervista ad alcuni compagni e compagne di Jesus, e rimanete poi con le orecchie aperte, perché penso che in settimana ce ne saranno altri di racconti appunto da questo campeggio Passamontagna. E nel frattempo noi ci ascoltiamo questa prima corrispondenza appunto curata da Radio Onda d'Urto. Eccola qua, se non mi incarto con i volumi, eccola qua. Allora, un saluto a tutti e tutte. Sì, siamo all'interno, diciamo, della terza giornata di questo campeggio contro le frontiere. Ci troviamo a Bardonecchia in questo momento, in qualche modo a Melese, dove abbiamo allestito il campo. E oggi era indetta un corteo alle 3 proprio per le strade di Bardonecchia. E il dispositivo poliziesco che hanno messo in atto è abbastanza sopra le righe, visto che già questi giorni le premesse non erano delle migliori, ci sono stati continui filtri con camionette a tutti gli ingressi del paese, del piccolo paese in cui siamo, e con controlli continui, perquisizioni e via discorrendo. Da questa mattina ovviamente hanno raggiunto il limite, ci sono più di 30 camionette, ci sono più di 10 mezzi fuori strada della polizia e dei carabinieri, e più di 40 digos, abbiamo elicotteri che volano su, ci sono due idranti, in un paese di fatto di due strade principalmente, e il sindaco ha fatto un'ordinanza per far sì che i bimbi possano uscire due ore prima da scuola per evitare che incontrassero i barbari. E per cui di fronte a questo spiegamento spropositato di forze che hanno voluto mettere in campo, abbiamo scelto di dividerci in gruppi e quindi di proseguire nel campeggio una serie di discussioni in corso sull'ipotesi di una creazione di una rete internazionale contro le frontiere. Si sta discutendo dei prossimi giorni a venire, quindi sullo spostamento a Claviere e le iniziative di lotta che ci saranno. Intanto un gruppo si è spostato per Sentieri e un altro gruppo siamo qui per le strade di Bardonecchia a far capire, insomma, l'assurdità del momento, il fatto che il blocco di questo paese, compreso appunto delle statali annesse, è stato creato dalle forze dell'ordine, il terrorismo che hanno messo in campo e quindi questo apparato di forze spropositato che hanno voluto mettere per terrorizzare la popolazione. Tutte le persone che abbiamo incrociato applaudono, sono d'accordo sul fatto che effettivamente è una cosa di abbastanza sopra le righe questa situazione, e quindi niente, abbiamo scelto di non scendere tutti quanti insieme qui tra le strade di Bardonecchia per non aggravare ulteriormente la situazione all'interno di questo paesino, e quindi di continuare a portare avanti quelle iniziative che stiamo portando avanti in questo momento. E questa è la situazione, ecco, in cui siamo adesso, e nonostante, ecco, diciamo, abbiamo una camionetta a testa in questo momento, ci stiamo ridirigendo a incontrare i compagni che stanno ritornando al campeggio dalle altre escursioni e iniziative di lotta che erano in programma. E quindi niente, in serata continuerà il campeggio e domani avverrà questo spostamento verso Claviere, in cui concluderemo gli ultimi due giorni del campeggio con delle iniziative, ecco, proprio nel luogo in cui in questo momento è più forte il passaggio dei migranti verso la Francia. Come dicevi tu, la mobilitazione di oggi segue tre giorni di campeggio. Ti chiedo quali iniziative sono state messe in campo e come proseguiranno le prossime due giornate. Sì, allora il campeggio è iniziato mercoledì con l'accoglienza dei vari gruppi e delle persone che vengono da varie parti del mondo. La giornata di ieri ha visto una serie di discussioni su vari temi. La mattina è stata più incentrata sulle radici e le origini che causano appunto i fenomeni migratori attuali, quindi un'introduzione generale e poi la divisione in gruppi a seconda di alcuni temi che sono stati scelti. E la seconda parte è stata invece le conseguenze di questo sfruttamento coloniale e per cui il come rapportarci qui in Occidente con questa ondata reazionaria in corso. È stata una giornata molto intensa, ci sono parecchi gruppi da varie parti del mondo, appunto, quindi è stata abbastanza interessante tutte le varie discussioni che sono nate. Oggi appunto è rendito questo corteo e quindi sono fatti questi vari giri in zona. Domani mattina ci sposteremo in quel di Claviere e nel pomeriggio ci sarà indetto un picnic popolare in una zona particolare di quella frontiera lì, con dei compagni e delle compagne che metteranno in campo così manifestazioni di sport popolare. E in serata ci sarà un'ulteriore iniziativa lì alla frontiera, quindi al blocco della PAF e della polizia di frontiera francese, e poi il giorno dopo, ecco, ci sarà una discussione conclusiva della 5 giorni e lo smontaggio del campeggio e via, e quindi finirà questa 5 giorni. Quindi la domenica mattina si tireranno le somme anche di tutti i contatti che sono stati creati e come appunto riuscire a fare rete e rimanere in contatto con tutte queste realtà che stanno partecipando. Eccoci qua, sì, in effetti io ho parlato di 2 giorni, ma erano ben di più. E chissà poi come sono andati, visto che arriviamo un po' dopo con questa rassegna stampa. Proseguiamo. Sì, continuiamo con la parte dedicata a Radio Onda d'Urto. Ci spostiamo in Germania, dove muore media attivista durante sgombero poliziesco della foresta di Hambach. Da www.radioondadurto.org, notizia di 3 giorni fa. Hambach, in Germania, una 50 di chilometri da Colonia. Articolo aggiornato venerdì 21 settembre 2018, accompagnato da un approfondimento di cui dopo vi faremo sentire una parte, appunto se volete approfondire andate sul sito. È durata 24 ore la tregua poliziesca nella foresta di Hambach, in Germania, dopo la morte di un media attivista, Steffen, di 27 anni, caduto da un albero alto 14 metri mentre riprendeva il tentato arresto di un altro attivista su un ponte sospeso tra 2 piante della foresta che la compagnia elettrica RWE vuole abbattere per sfruttare il sottosuolo tramite una miniera di lignite. Dal primo mattino di venerdì 21 settembre, centinaia di poliziotti sono tornati nella foresta, a poche decine di chilometri da Colonia, per disboscare l'area e allontanare attivisti e attivisti che resistono seduti per terra, cercando nel contempo di evitare i fermi. Verso mezzogiorno è iniziato lo sgombero vero e proprio. La corrispondenza dalla Germania con Oskar Fester, attivista italo-tedesco che segue la lotta alla foresta di Hambach, appunto qui sul sito potete ascoltare la corrispondenza con questo Oskar Fester, come si legge? Eh sì, c'ho 7 consonanti e nessuna vocale, è un po' così. Ancora in Germania, un incendio scoppiato nell'area di sperimentazione militare dell'esercito a Meppen, nella Bassa Sassonia. Si sta espandendo pericolosamente e le autorità stanno considerando l'eventualità di evacuare i 2 comuni limitrofi, di Grossstaven e Kleinstavern. La circoscrizione di Emsland ha deciso di invocare lo stato di emergenza. 714 ettari già andati in fumo in sole 24 ore. Ah, bel momento in Germania comunque, infatti, complimenti. Splendido. Aggiornamento di giovedì 20 settembre 2018. Un media attivista, Steffen, è morto all'interno della foresta della Germania occidentale, che ormai da una settimana è sotto sgombero, il tutto per consentire l'allargamento di una maxi miniera di lignite curata dalla compagnia energetica RWE. Da giorni la resistenza di centinaia e centinaia di ambientalisti tedeschi, ma non solo, che nel corso degli anni hanno realizzato decine di case sugli alberi per impedire il disboscamento di oltre 100 acri di terreno. Contro di loro migliaia di agenti. In una di queste operazioni poliziesche, nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 19 settembre, Steffen è caduto a terra da una casa sull'albero, un'altezza di 14 metri. Ferito gravemente, è stato portato subito all'ospedale di Colonia, dove è morto nella serata. Ora c'è un'altra corrispondenza con sempre il tizio delle tante consonanti, Oskar Fester, attivista italo-tedesco. Ne faremo sentire una parte dopo. In una conferenza stampa di emergenza, il portavoce della polizia regionale ha dichiarato che nessuna operazione era in corso nell'area in cui si è verificato l'incidente. Secondo le forze dell'ordine, un poliziotto sarebbe arrivato ai piedi dell'albero per dare a Steffen una scheda di memoria della fotocamera. Il giornalista è caduto mentre cercava di recuperare la scheda. Questa informazione è veramente strana e io non sono riuscita a decifrarla, onestamente. Dalla corrispondenza non si capisce molto. Vi invito, anzi, se avete più notizie per capirci qualcosa, perché le fonti purtroppo non sono tantissime, non è che si riesca a districarsi molto. Se ne sapete un po' di più, insomma, scrivetecelo, posta@wombat@insiberia.net, perché magari ci aiutate a dare meglio la notizia, a delucidare un po' le cose. Completamente diversa la ricostruzione del collettivo ambientalista Ambi Bleibt, che significa la foresta di Hambach deve sopravvivere. La SEC, unità elite della polizia tedesca, denuncia: stava arrestando un attivista vicino a un ponte sospeso. Steffen stava filmando l'operazione poliziesca quando è caduto a terra. Dopo la morte del media attivista, le operazioni di evacuazione della foresta di Hambach sono state momentaneamente sospese. Attivisti e attivisti chiedono che lo stop diventi definitivo per evitare altre vittime. Nella notte, in decine di città tedesche, ci sono stati veglie, cortei e azioni dirette contro le sedi della compagnia RWE. Azioni dirette anche in Francia, dove la polizia nell'ottobre 2014 uccise un altro attivista ambientalista, Remy Fraisse, come si legge mai? Fraisse, 21enne colpito da una granata esplodente durante una manifestazione contro la diga di Sivens, nel sud della Francia. La foresta di Hambach è diventata negli ultimi anni il simbolo della lotta contro il carbone e la deforestazione in Germania, l'equivalente tedesco della ZAD francese di Nantes, occupata da 6 anni da attivisti ambientalisti. Negli ultimi 6 mesi la compagnia energetica RWE ha accelerato il progetto di sfruttamento del sottosuolo della foresta, ricco di lignite. Da 4.100 ettari, originariamente coperte di alberi, ora ce ne sono solo 200. In seguito al via libera della giustizia tedesca, RWE intende raderne solo la metà a partire dal 1 ottobre. La scorsa settimana il governo regionale della Renania, settentrionale Vestfalia, ha lanciato l'evacuazione della ZAD tedesca ufficialmente per l'alto rischio di incendio. In realtà si tratta di un assist ai progetti di sfruttamento della RWE. Ora vi facciamo sentire la parte che abbiamo selezionato nell'approfondimento. Sì, l'intervista era molto lunga e non potevamo farvela ascoltare interamente, quindi abbiamo selezionato circa 3 minuti che però raccontano il momento appunto della caduta di Stephen, anche se, vi ripeto, purtroppo non riusciamo ancora, neanche con l'intervista, a capire molto bene la dinamica e qual è anche la situazione in questo momento. Però intanto ascoltiamo. Sì, molto più preciso non posso dirlo e non voglio neanche dirlo per non fare dei giudizi sbagliati. Credo che sia la cosa più giusta aspettare una versione ufficiale, perché io non ero sul posto, però posso dire semplicemente che è successo così, che stava venendo sgomberata una casa sull'albero di Beachtown dall'unità speciale e questo ragazzo era andato apparentemente a cambiare una scheda SD passando su questo ponte sospeso, poi stava tornando a documentare i fatti che si svolgevano e in qualche modo non so dire come, deve essere caduto da questo ponte sospeso senza veramente l'intervento di altre persone. Quindi questo è quello che posso dire, so dire di certo, il resto sarebbero più speculazioni che altro. Ecco, non so se tu hai avuto modo di leggere qualcosa sui media tedeschi, è uscita una prima, comunque ancora approssimativa, versione anche della polizia tedesca, che se non abbiamo letto e interpretato male ha tenuto una conferenza stampa. Mi sembra che la polizia tedesca abbia dato la versione che si siano rotte degli assi su questo ponte e che quindi Stephen sia caduto per questo motivo e che soprattutto in quel momento non ci fosse stato alcun intervento della polizia. Questo non mi risulta, per secondo quanto dicono i compagni nel bosco, non mi risulta corretto, però è tutto da valutare. Sicuramente ora la polizia prese un attimo di tregua, ieri subito dopo l'accaduto si sono ritirati e per adesso c'è ancora pausa, ma il ministro dell'interno del NRV, che è la regione, ha detto che comunque si continuerà con lo sgombero, non sa quando, però si continuerà e chiede agli attivisti di andarsene per evitare altri danni, mentre gli attivisti chiedono, noi diamo proprio di smettere con questo sgombero per evitare altri danni. Thank you. like a fist full of cash or a blitz full of the hash that twists like a moustache from end to end, spread it like a rash from talking through your Walkman or at your disco bash. Give me the Tim Drumple still skin brown, a metal face mask with a built-in frown, a mic to tilt down 100,000 pounds and see how kilt sound like spilt milk clown. Cocoa butter on a very ashy day, fam. Ray-Bans out on the islands of Cayman. Or I break it down for the layman. Band-Aid Soleil for the central patent. A can of old gold, too cold to hold, slow your roll. Keep on moving like soul to soul, hold the dough. Like a fool stole pity off, trying to go up against City Hall Titty Mall. The black mic is like a red violin. Okay, everybody back to the lab, try again. Rap game like Leviathan, leave bad takes, killing my high like niacin. Stop kidding, middlemen need riddling. Hit me with the full tin and gin and I'm a kid again. Keep the bong lighting straight through the song writing. The supervillain, aka the thong biting, is inviting all to the reciting that's dope and raw. Hoping all y'all come in peace and it's open more. Tear the roof off this bumper rise clock. By the end of the night, spaz like Shazbot. I spilt a shot, made the pen lines runny. Hill plot to 10 times Ben Stein money. Funny how he ripped the scripts with a straight face, with more rhymes than his lies in your database. Placing rappers in endangerment, who's reckless with this food for thought, sorta like breakfast. You could mark it off as wreck on a checklist. Wear gold fronts, can't afford no necklace. Should that 10 go to help build them daycares? Somebody say yeah, pay your fears. Get the herbalizer dishes, and y'all can pay doom and beers. I came to the shores of America, the sky that's a pillar, the alpha and omega, the home of the beggars, the black settlers, who've been beaten, raped, lynched, robbed, and stoned, and called upon the earth for service, till they couldn't maintain it home. This dates back to 1555, when they captured the first tribe of men, and piled them in a pen, 50 feet high, and took them all on a 9,000 mile ride. They landed on the shore of a place they'd never seen before. We read about this inside the ancient books of war. Bondage and stainless steel stripped of their language. Still survived the anguish of slavery but still remain nameless. Separated to portions and tricked by John Hardy Hawkins. And sold on the auction, taught birth control and abortion. Rulers of the first part became slaves of the worst part. The devil's curse God and reverse God. And turned God to dog and made people so tired. No relief came to the prophet by W.D. Farrar. Taught trauma, dropped our mamas off in Bahamas and Barbados. Tobagos separated us from slave boats. Made our own brothers hate us. From Virgin Isle to Jamaica, Trinidad, Honduras, Haiti, Grenada, Bermuda to Cayman, mental enslavement. Allora, questi erano, c'era un pezzo di stacco per non farvi deprimere troppo, era MF Doom featuring RZA, ovvero Wu-Tang Clan, pezzi di Wu-Tang Clan, Books of War, giusto per rimanere sempre sull'orientale come piace Wu-Tang Clan. E continuiamo sempre, sempre onda d'urto, ormai oggi sono un po' così. mi sono ancora svegliata, radio è andato urto, usciamo dall'Europa e andiamo in Etiopia ed Eritrea perché c'è stato un nuovo accordo di pace di cui non se ne sa tantissimo ancora, perché noi non vi faremo sentire la corrispondenza audio, però c'è una corrispondenza piuttosto interessante che sostanzialmente vi sintetizzo, racconta il fatto che lì è una situazione ovviamente molto complessa, ma questo accordo di pace che è stato molto pubblicizzato in realtà non si trova da nessuna parte cosa contenga, quindi fondamentalmente c'è stato uno sbandieramento del sì volemo se bene. Sicuramente è un gran passo in avanti il fatto che siamo arrivati a un incontro tra Etiopia ed Eritrea, ma cosa questo accordo poi effettivamente contenga e cosa comporti ancora non ci è dato di saperlo con esattezza, quindi fondamentalmente siamo tutti un po' in attesa a cercare di capire cosa succederà. Nuovo accordo di pace tra Etiopia ed Eritrea. 17 anni fa il dittatore eritreo silenziava ogni opposizione. Questo è il titolo dell'articolo che trovate in integrale su radio www.radioondadurto.org, articolo del 19 settembre. Etiopia ed Eritrea hanno rinnovato la loro intesa con un nuovo trattato di pace sottoscritto la scorsa domenica 16 settembre in Arabia Saudita. La pace tra i due paesi è un evento storico perché chiude definitivamente il conflitto avviato nel 1998 per una contesa dei confini. L'accordo tra Etiopia ed Eritrea accade in una settimana molto importante perché ricorre il 17° anniversario della stretta repressiva del regime che il 18 settembre 2001 arrestava 15 dirigenti politici del Fronte Popolare di Liberazione dell'Eritrea. Non sono noti i contenuti specifici dell'accordo tra i due paesi del Corno d'Africa. Sicuramente la nuova intesa gioca un ruolo importante nei difficili equilibri politici etiopici che si snodano all'interno dei rapporti tra le diverse etnie. Attualmente al governo è al potere il presidente Abiy Ahmed, fautore di una politica progressista e di distensione sul piano internazionale che appartiene al gruppo Oromo. Di peso notevole rimane il gruppo Tigrino che per anni ha governato il paese in competizione con lo Stato eritreo per la contesa dei confini. La regione Tigray è proprio quella che confina l'Eritrea, che confina con l'Eritrea. Abbiamo approfondito tutto questo con Massimo Alberizzi, corrispondente storico del Corriere della Sera dall'Africa, ora direttore del quotidiano online africaexpress.info. E appunto vi invito ad ascoltare integralmente o in parte, come preferite, l'intervista che trovate sul sito di Radio Onda d'Urto. E andiamo avanti. Passiamo alla parte della rassegna dedicata a Radio Blackout. Sì. Radio storica di Movimento di Torino. Era un po' che non la citavamo, ci siamo ritornati finalmente. Abbiamo un articolo sul taser, la subdola repressione del taser, Radio Blackout 105.250 FM da radioblackout.org, pubblicato l'8 settembre 2018. Perché loro sono fortunelli come noi, Torino è una città fortunella come Firenze che sono tra gli sperimentatori del taser, che bello eh? Al pari all'avanguardia. Mamma mia che bello, quanto siamo fortunati. C'è elettricità oggi nell'aria. Che culo. Ce ne siamo accorti, sì. I media mainstream gongolano tutta la loro fibrillazione perché stesse data una lite in via Lauro Rossi a Torino. Semplicemente con la prima estrazione del taser dalla fondina, un condizionamento di qualsiasi espressione sociale in una qualunque comunità. A questo proposito, ieri abbiamo potuto valerci dell'intervento di Denis, componente del Prison Break Project, a illustrarci tutto l'orrore che si cela dietro a uno strumento pensato come arma contro gli insubordinati in dotazione dei nuovi sceriffi, che cambierà qualsiasi relazione tra chi può ora terrorizzare e chi rischia mutilazioni, dolorose scariche, infarti, incontrollabilità del proprio corpo paralizzato. Deterrenza verso le vittime e deresponsabilizzazione degli aguzzini. Abbiamo invitato Denis a... Denis? Denis, credo Denis. In realtà, perché è un uomo, quindi credo che sia Denis. Denis, abbiamo invitato Denis a ripercorrere i diversi aspetti approfonditi nel bello opuscolo che si può scaricare gratuitamente dal sito. E lo scambio è stato molto istruttivo per quanto a tratti orrifico. non solo per i 1000 morti ormai conosciuti anche alle masse distratte, ma che devono essere informate per potersi sentire sicure e contemporaneamente dover assumere atteggiamenti di sottomissione, ma proprio per la minaccia equiparata al manganello di una pistola che ha già mutilato molti e che invece Gabrielli spaccia come il sistema più sicuro per immobilizzare rispetto ai 5 colpi serviti a uccidere Jefferson Tomalà per sottoporlo a un TSO. Un altro aspetto è quello accennato nel titolo, l'individualizzazione del soggetto da colpire per omologarlo a chi è al suo fianco e vede così cosa rischia, cambiando il paradigma dell'ordine pubblico, con lo scopo di evitare ogni forma di contatto e di organizzazione di lotta da ora in poi, visto che chiunque sia gestore del Viminale si è dimostrato che non recederà da qualunque strumento sia stato messo a disposizione della repressione. E tra questi vi sono anche proiettili di gomma e le granate di frammentazione. Mica che periodi lunghi. La facilità di utilizzo di questi arnesi si giustifica automaticamente, banalizzando le potenzialità micidiali di un'arma dichiarata non letale, senza problematizzarne l'uso e non solo in luoghi chiusi, come penitenziari e CPR. C'è però una speranza che proviene dalle esperienze pregresse per ridurre il danno e diminuire l'impatto, come si coglie dalla testimonianza di Denise. Ah, vabbè, siamo qui tra noi. Esatto. E poi c'è un altro augurio che possiamo fare al capo della polizia, ed è che ne facciano largo uso nelle caserme per risolvere i problemi interni alla comunità in divisa, tanto è solo una scarica di energia. Sì, ci ascoltiamo questa intervista a Denis. In realtà vi invito anche, oltre a sentire l'integrale di questa intervista, perché noi ne abbiamo tratto solo un pezzetto e l'integrale potete guardarlo ascoltarlo sul sito di Radio Blackout, radioblackout.org, vi invito anche a dare un'occhiata a un interessante progetto di cui Denis fa parte e che in realtà nel resto dell'intervista viene illustrato nel dettaglio, che è Prison Break Project. Il sito è prisonbreakproject.noblogs.org, dove potete scaricare anche l'opuscolo di cui parla nell'intervista, che è un opuscolo che hanno realizzato piuttosto approfondito, piuttosto studiato sulle cosiddette armi non letali che tanto vanno di moda in Europa e anche in Italia in questi ultimi anni. Quindi ci ascoltiamo intanto questo piccolo estratto della intervista. La cosa che ci ha colpito è stato come il capo della polizia Gabrielli abbia utilizzato un caso di un ragazzo a Genova che è stato ucciso durante un intervento per un trattamento sanitario obbligatorio come esempio lampante dell'urgenza necessaria di utilizzare un taser come arma non letale, quindi proprio per sostituire la pistola. Noi pensiamo che al contrario il taser, in particolare per le lotte sociali, ma anche per tutte le forme di subordinazione, sia un sostituto al manganello più che alla pistola. E questo, il caso francese che conosciamo un po' meglio, è molto ricco di esempi. Un altro elemento che vogliamo sottolineare è proprio come il taser, al contrario proprio del manganello, cerchi proprio di individualizzare sempre di più il nemico da colpire. Si colpisce uno per colpire e insegnare a tutti gli altri che sono attorno, con una logica proprio dove uno che è a fianco a te può essere colpito. Per cui pensiamo che stia dentro anche delle logiche più ampie di cambiamento di paradigma dell'ordine pubblico, in Italia sempre più portato a mettere a distanza le persone ed evitare ogni forma di contatto e ogni forma di possibile anche organizzazione di questo tipo. E un ultimo elemento che pensiamo che sia centrale è quello di dietro il taser c'è l'ennesima campagna contro il nemico pubblico. Il taser è per quelli che sono incompatibili con l'ordine pubblico, quelli che sono insubordinati. C'è bisogno di mantenerli a distanza con dei dardi elettrici, c'è bisogno di metterli fuori combattimento, e in questo senso la campagna di quest'ultimo governo contro i migranti, contro le occupazioni e contro tutte le forme di opposizione ci sembra chiaramente coerente con l'accelerazione nell'adozione del taser, perché erano anni, era il 2015 che a livello giuridico vi erano le chiavi di accesso per l'adozione del taser. Adesso si è iniziato, e un'ultima nota, di sicuro questa, purtroppo, questa sperimentazione, sappiamo che ogni volta che la polizia italiana, come quella europea, sperimenta nuove armi, è rarissimo, se non impossibile, che ci sia un ritorno all'indietro, per cui il taser farà parte di quegli strumenti che bisognerà combattere anche nel nostro quotidiano delle lotte. Sì, tra l'altro sempre su Radio Blackout c'è anche un'altra corrispondenza fatta con una componente di un collettivo nuovo che è nato proprio per denunciare l'uso del taser e per contrastarlo e protestare contro questa altra simpatica arma che ci hanno messo puntato contro. Collettivo di madri, tra l'altro, spesso ce ne sono, purtroppo perché sarebbe bello che non ce ne fosse bisogno, ma insomma anche quello vi invito a guardarlo e ascoltare la corrispondenza sempre sul sito di Radio Blackout, radioblackout.org. Sempre di taser parliamo, questa volta tramite internazionale. Il sito internazionale www.internazionale.it, dove potete trovare questo lungo articolo del 13 settembre che racconta a livello internazionale quello che sta causando questa meravigliosa arma non letale, che in realtà è anche molto letale. E parla e approfondisce un po' meglio questa famosa questione dei 1000 morti negli Stati Uniti, di cui si sta iniziando finalmente un po' a parlare anche qui in Italia, perché insomma finora sembrava che il taser fosse un qualcosa di meraviglioso che risolveva tutti i problemi sparando cuoricini e fiorellini, e in realtà ci si rende conto piano piano anche in Italia che è tutt'altro, e che di morti ne fa già molti, e che comunque non muore bene non sta. Ve lo leggo, non integralmente perché è veramente molto molto lungo, ma insomma se vi interessa l'integrale potete appunto trovarlo sul sito di Internazionale. Più di 1000 morti in tutti gli Stati Uniti, migliaia di corpi di polizia hanno adottato il taser. I casi simili a quelli di Shrock sono sempre più frequenti. Un colpo di taser, una morte accidentale, una richiesta di risarcimento. Ma dietro ogni caso si nasconde una realtà più complessa ed è nato un dibattito sull'uso di queste armi. Negli Stati Uniti la Reuters ha documentato 1042 casi di persone colpite a morte con un taser dalla polizia, in gran parte avvenuti dopo l'inizio degli anni 2000. Molte vittime appartengono a gruppi di persone vulnerabili. Un quarto delle vittime soffriva di crisi psicotiche, come Shrock. Parlano di questo Shrock perché all'inizio dell'articolo si descrive le condizioni della sua morte. Dicevo, un quarto delle vittime soffriva di crisi psicotiche o disturbi neurologici. In 9 casi su 10 la vittima era disarmata. Più di 100 incidenti mortali sono cominciati con una richiesta d'aiuto al 911 durante un'emergenza medica. In molti casi non è possibile stabilire con precisione quale sia stato il ruolo del taser, ma ci sono oltre 400 eventi dei quali la documentazione presentata in tribunale fornisce un resoconto abbastanza dettagliato. In un quarto di questi casi i poliziotti hanno usato solo il taser, negli altri casi sono state impiegate altre forme di coercizione. La gran parte dei ricercatori indipendenti che hanno studiato le pistole elettriche concordano sul fatto che quando i taser sono usati in modo appropriato le morti sono rare, ma è altrettanto vero che calcolare la probabilità di morire a causa di una scarica elettrica del taser è praticamente impossibile, perché non ci sono dati ufficiali sull'uso di quest'arma e i decessi hanno spesso più di una causa. Direi che quindi è un ottimo strumento, utile a quel che serve. Sullo sfondo di questa incertezza generale, Taser International ripete da anni che le sue armi non sono quasi mai la causa di morte. L'azienda sostiene che le vittime delle pistole elettriche sono state 24. 18 persone sono morte per traumi alla testa o al collo nella caduta successiva al colpo e 6 per le fiamme innescate dall'arco elettrico dell'arma. Insomma, una buona proporzione, direi 1000 contro 24. Direi che siamo tutti d'accordo. Secondo l'azienda, nessuno è mai morto per l'effetto diretto della potente scarica elettrica sul cuore o su altre parti del corpo. Alcuni documenti ufficiali però raccontano un'altra storia. Reuters ha potuto consultare le autopsie di 712 delle 1.005 vittime censite. In 153 casi, oltre un quinto, il taser è indicato come causa o come fattore che ha contribuito alla morte. Le altre autopsie citano una combinazione di problemi di salute, in particolare di cuore, di abusi di droghe e traumi di vario genere. Taser International ha raggiunto il successo grazie a una precisa strategia di marketing. Il taser è considerato un dispositivo utile a garantire la sicurezza degli agenti. Circa il 90% dei 18.000 diversi corpi di polizia degli Stati Uniti lo usa. L'arma spara due dardi collegati alla pistola da cavi sottili. Quando il dardo colpisce il bersaglio, una scarica di corrente a impulsi provoca una paralisi neuromuscolare che concede agli agenti alcuni secondi per immobilizzare il soggetto. La pistola può anche essere premuta contro il corpo, causando dolore intenso. Studi indipendenti hanno dimostrato che il taser, se usato correttamente, riduce il rischio di infortuni per gli agenti e le persone che li affrontano. Secondo Taser International, le pistole elettriche sono state usate oltre 3 milioni di volte sul campo. Le 1.005 morti identificate da Reuters superano del 44% le 700 riportate da Amnesty International alla fine del 2016, nonostante l'agenzia di stampa abbia usato criteri più rigidi per il conteggio. Secondo Taser International, queste cifre forniscono un quadro esagerato dei rischi perché lasciano intendere che la pistola elettrica sia la causa di tutti i decessi, mentre nella maggior parte dei casi i poliziotti hanno usato altre forme di coercizione. I dispositivi, continua l'azienda, hanno salvato migliaia di vite, ma infatti grazie veramente. Dopo che Reuters ha presentato i risultati della sua ricerca a Taser International, la società ha inviato un promemoria alle forze dell'ordine in cui prende in esame alcuni punti centrali della ricerca, definendoli non nuovi e promettendo di fornire informazioni cruciali per sconfessare le conclusioni di Reuters. Taser International, che ha acquisito la tecnologia della pistola elettrica negli anni 90, ha cambiato nome dall'aprile del 2017 in Axon Enterprise. Il cambio di nome, spiega l'azienda, sarebbe legato all'espansione della gamma dei prodotti commercializzati. Messaggi contraddittori. Taser International ha raggiunto un'enorme popolarità grazie a una strategia di marketing ben precisa: convincere i dipartimenti di polizia che invece di ricorrere ad armi letali o a scontri fisici potenzialmente pericolosi per gli agenti, sottolineerei io, gli agenti avrebbero potuto neutralizzare soggetti ostili paralizzandoli con la pistola elettrica. Eppure, come dimostra questa inchiesta, anche le pistole elettriche possono causare la morte. In molti casi le persone decedute soffrivano di problemi mentali, disturbi emotivi o sindromi convulsive. Vabbè, diciamo che dipende dalla salute di chi ti sta a cuore, ecco, nel caso in cui ti stia a cuore la salute soltanto ed esclusivamente della gente, ci sta che effettivamente il taser un po' t'aiuti, ma andava bene anche la pistola forse, in effetti. Sì, infatti, magari se spari le gambe non becchi un'arteria, il soggetto sopravvive. Ma sì, ma te la cavi, dai, tanto chi ti fa causa? Negli Stati Uniti spetta ai dipartimenti di polizia, non al produttore, stabilire in quali casi gli agenti possono usare le pistole elettriche. Ci sono stati come il Connecticut che hanno codificato un regolamento generale per l'uso del taser. Alcuni tribunali federali hanno stabilito che il taser può essere impiegato solo su soggetti aggressivi, e questo aggressivi è veramente opinabile. Un'idea condivisa da un numero sempre maggiore di dipartimenti di polizia. Il think tank Police Executive Research Forum mette in guardia contro l'uso del taser su persone che si trovano in stato di emergenza medica. Non è ancora arrivata in Italia questa direttiva, si vede, proprio non gli è arrivata. Siamo lontani, d'altra parte c'è l'oceano di mezzo e un po' ci va. Le procedure seguite dalle forze dell'ordine in ogni caso sono molto varie. La stessa azienda produttrice ha inviato messaggi contraddittori riguardo l'uso delle pistole elettriche su soggetti con disturbi mentali, come ha potuto verificare Reuters esaminando i fascicoli legali e le centinaia di pagine di materiale informativo prodotto da Taser International negli ultimi 15 anni. All'inizio degli anni 2000, quando i taser hanno cominciato a diventare popolari tra le forze di polizia, l'azienda presentava le pistole elettriche come uno strumento efficace e relativamente sicuro per controllare le persone che soffrivano di disturbi mentali sessuali o erano sotto l'effetto di droghe o alcol. Nel 2004 Taser International sosteneva che la pistola elettrica stava diventando rapidamente lo strumento più adatto a gestire persone emotivamente disturbate. Con il passare degli anni l'azienda ha adottato un atteggiamento più prudente. Nel materiale fornito ai dipartimenti di polizia nel 2013 si consigliava di non colpire persone ritenute con disturbi mentali. Nelle raccomandazioni ufficiali per le forze dell'ordine non si citavano casi del genere, ma si sconsigliava l'uso su persone in stato di agitazione estrema e dal comportamento bizzarro. I dipartimenti di polizia e i loro avvocati hanno sottolineato che per un agente può risultare impossibile stabilire se un soggetto risponde a questi criteri, ma mi pare che ci abbiano anche ragione. Valutare rapidamente lo stato mentale di un individuo è una delle cose più difficili che un poliziotto possa dover fare, spiega Eric Carlson, istruttore e consulente del Dipartimento di Polizia Metropolitana di Las Vegas. Nel dubbio spara. I taser non dovrebbero essere usati su gran parte della popolazione. Le ricerche sull'uso del taser su persone in stato di agitazione mentale e altri individui vulnerabili sono molto limitate. Jena Neuschler, coautrice di uno studio sul taser del Criminal Justice Center della Stanford University, spiega che la carenza di dati è dovuta anche a vincoli etici. Non sappiamo quale sia l'impatto delle persone affette da malattie mentali sotto effetto di droghe, cardiopatiche, potenzialmente in stato di gravidanza, spiega Neuschler, perché non siamo autorizzati a effettuare test su queste persone. Lo studio della Stanford University ha dimostrato che i taser non dovrebbero essere usati su gran parte della popolazione e che l'arma è sicura solo se usata su individui in salute che non sono sotto l'effetto di droga e alcol, non sono in stato di gravidanza e non soffrono di disturbi mentali, a patto che il soggetto riceva una scossa standard della durata di 5 secondi su una delle aree del corpo approvate. Che possono fargli fare un questionario alla vittima prima. Ma anche secondo me il certificato medico. Sì, sì. Che crocetta, una firma e poi spam. E poi via, mi autorizzi a tramortirti? Soffio nel palloncino ma sei sbronzo? Sì, ma mi sembra una buona idea, proponiamo. Mac Adam Lee Mason sembrava disorientato quando è uscito barcollando dalla casa in Vermont che condivideva con Teresa Davidonis e i suoi figli. Era il tipico comportamento di Mason quando si stava riprendendo da una crisi convulsiva. Gli agenti della Polizia di Stato che avevano circondato la casa quel pomeriggio del giugno del 2012 hanno avuto una percezione diversa. Mason, 39 anni, era un artista che soffriva di crisi convulsive e disturbi mentali dopo aver riportato danni al cervello in un incidente tempi del liceo. Gli agenti erano già stati a casa sua poche ore prima perché Mason aveva chiamato un centro di sostegno dicendo di aver avuto una crisi, di essere infuriato e di voler uccidere se stesso o qualcun altro. Davidonis aveva mandato via i poliziotti spiegando che Mason era spesso irrazionale e incoerente dopo le crisi, non era una minaccia e non era armato. Qualche ora dopo gli agenti sono tornati per un controllo, Davidonis era uscita e nessuno aveva risposto al campanello. Mentre gli agenti si posizionavano nella proprietà sospettando che Mason si fosse nascosto nel bosco circostante, Davidonis era rientrata. L'agente David Schaeffer si era nascosto dietro un albero accanto alla casa con un fucile d'assalto. Ha visto Mason nel giardino, gli è sembrato in uno stato confusionale, come ha dichiarato in seguito agli inquirenti. Schaeffer si è avvicinato a Mason con l'arma abbassata, ma pronta a essere puntata, ordinandogli di stendersi a terra. Mason ha alzato le mani e si è seduto sull'erba, ma quando Schaeffer gli ha intimato di stendersi a faccia in giù, Mason si è alzato in piedi. Sparami, lo ha sfidato. In seguito Schaeffer ha riferito che Mason si era mosso verso di lui come per colpirlo con un pugno. Davidonis smentisce questa tesi. Sotto gli occhi della donna, Schaeffer ha impugnato il taser. Urlavo: non colpitelo con il taser, ha avuto una crisi, lo ucciderete, raccontava Davidonis, ma il poliziotto ha sparato e la scarica l'ha colpito al petto. È crollato al rallentatore. Mason ha avuto un arresto cardiaco. Il medico che ha esaminato la salma ha attribuito la morte al taser. La madre di Mason, Rhonda Taylor, porta con sé le ceneri del figlio in una piccola scatola di legno. Quando un poliziotto uccide qualcuno in questo modo, qualcuno malato di mente uccide anche la madre.

concepts. I'm socially uncomfortable, emotionally dysfunctional. Don't mean to be so closed, I try to open but I struggle to. I don't know what it is, but something's got to give. The problem needs resolving, cause I've had enough of it. I'm socially uncomfortable, emotionally dysfunctional. Don't mean to be so close, I try to open but I struggle to. I don't know what it is, but something's got to give. The problem needs resolving, cause I've had enough of it. Catch me in the club in the background, with my hood up to my cap down. Looking like a dumb thug, you should pack down. But trust, I'm not gonna act out. Look, no trouble, I'm in my own zone. Close bubble, get to know. No disrespect, but I just wanna be left alone. So don't always expect a lows. For someone that loves to share, I'm somewhat unprepared. Stuck in a rut of being careful, but I'm not sure what I'm even scared of. But I've become aware that confidence, well, it's a problem. Cause when you've got lots, the consequence, it's dominant. But when you've got none, you're anonymous. Lost and not autonomous. Just my thoughts and my hypothesis. Music taught me about myself and brought me up out of my shell. Now I'm more compelled to talk the thoughts I've held to an audience as well, and not hoard them all to myself, torment as I dwell. It's unfortunate, I'm still flawed and socially awkward, but I had a goal and I chose to move towards it. Focused on my soul, foot in the door, kicked open, broke it, doing applause. Each one sold its own reward. Thanks so much to those who show support. I'm full of hope as a soldier forward. Soldier forward. Eccoci qui. Proseguiamo con l'ultimo contributo che andiamo a leggere. Che eh sì, perché è infervorata la polemica, non so se ve ne eravate accorti. Appunto, ricavalchiamo l'onda che va, appunto, ha avuto il suo apice massimo qualche giorno fa su, appunto, l'argomento film di Cookie barra rapporto di film di Cookie con la riproduzione non autorizzata negli spazi sociali. E Facebook, e la Facebook. Scoperta che Facebook è cattivo. Sì, davvero, la scoperta dell'acqua calda. Sì, c'è stato questo incredibile scoprire, veli di Maya che cadevano, sì sì. Incredibile, una multinazionale dalla parte di un'altra multinazionale e mi censura l'evento. Ma guarda, incredibile, ma poi più che altro vorrei anche aggiungere che forse, magari al di là del sarcasmo, qualcuno si è reso conto che usare come unica fonte di comunicazione, di metodo di comunicazione, un social network di magnati e appunto ricchissimi padroni del mondo, forse non è un'ottima idea. Anche perché nei tempi più recenti l'algoritmo è pure cambiato e la comunicazione è proprio scesa al minimo, proprio la comunicazione come comunicazione, non parlando di cazzate, di video di gattini e simili. Mm. Sì, tra l'altro, cioè, ora non per rubare tempo all'articolo, ma altra considerazione che io trovavo abbastanza, cioè che mi è venuta in mente, è il fatto che si delega in qualche maniera, cioè si trova naturale delegare a una multinazionale, ma più che altro insomma a un'azienda fondamentalmente come Facebook, la difesa dei propri diritti, chiamiamoli così, cioè si reclama il diritto alla comunicazione, ci si aspetta che sia Facebook a darlo. Quindi in qualche modo, secondo te, il diritto alla comunicazione doveva, cioè l'avevi consegnato a Facebook e ti lamenti perché non lo rispetta, è un po' bizzarro, ecco. Infatti questo comunicato di Bida, collettivo hackattivista di Bologna, abbiamo appunto una riflessione sull'accaduto e una valida alternativa. Sì, fanno un po' di pubblicità, giustamente. Facebook censura, mandatela a quel paese, venite su Mastodon. Non abbiamo ancora visto il film su Cookie, rimedieremo al più presto, ma intanto ne abbiamo visto un altro, bruttino e un po' banale. I buoni erano ragazzi arrabbiati contro le violenze degli uomini di Stato, i cattivi e le solite multinazionali senza scrupoli. La trama esce al cinema sulla mia pelle, il film di Alessio Cremonini con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca, che racconta la vicenda di Stefano Cucchi, morto trentenne nell'ottobre 2009 dopo un pestaggio dei carabinieri. A distribuirlo nelle sale è Lucky Red, uno dei principali player del mercato italiano. Contemporaneamente va sul catalogo di Netflix. Spazi sociali e realtà associative in molte città decidono di proiettarlo pubblicamente e gratuitamente, perché quella terribile storia di ferocia in divisa raggiunga più persone possibili. Quasi tutte hanno adottato Facebook tra i canali su cui promuovere le proiezioni. Lucky Red dice a Facebook: «Ehi, guarda, il copyright di quella roba è mio!» E Facebook cancella eventi e messaggi dalla propria piattaforma. Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, esprime dispiacere e amarezza per la cancellazione. Una trama banale, abbiamo detto, perché tutto è scontato. Perché è tutto scontato. Una delle più grandi corporation mondiali, che di mestiere lucra su parole e immagini dei suoi utenti, protegge i profitti di altri ricconi, oligopolisti del lucroso mercato della distribuzione cinematografica, senza badare minimamente al sodo della questione, che ricordiamo è sempre un uomo ucciso dai carabinieri. Beh, che altro ci si dovrebbe aspettare da Facebook? Serve a poco sdegnarsi e invocare la libertà di espressione. Facebook è un privato e di quel che ci si carica fa quello che stracavolo gli pare. Quello che invece serve è mandarlo a quel paese, smettere di usarlo per promuovere iniziative dal basso e in generale smettere di perderci tempo. Serve e si può, perché l'alternativa c'è. Esiste la tecnologia per creare un social network libero dalle logiche del profitto e rispettoso dei propri utenti. Si chiama Mastodon, è un software libero, ed esistono migliaia di server, liberamente federati tra loro, non assoggettati dalla schiavitù del copyright né al business predatorio dei dati. Noi siamo Bida, un collettivo di attivisti e cattivisti attivo a Bologna, e il 13 giugno abbiamo aperto a tutti un nodo, istanza Mastodon, che mira a preservare tutti i buoni insegnamenti dell'esperienza di Indie Media, che lo scorso decennio ha fatto la storia della comunicazione libera e autonoma. Per iscriversi non vogliamo nessun dato, basta una mail e basta non essere fascisti, sessisti o razzisti. Premessa ottima. L'indirizzo è mastodon.ibida.im. Ibida è un po' ibrida. Sì. E qui c'è il nostro manifesto che spiega a fondo la filosofia del progetto. Mastodon.ibida.im/about/more, non so come si legge questa roba. Comunque, mamma mia, quanto sei vecchio! Cioè, lo dicono tutti. Ma veramente, mastodon.ibida.im/about/more. Mi piace più la carta del computer. Vabbè. Bravo, ma fai bene, non è che io ti do torto. Durante quest'estate si sono iscritte oltre 1000 persone, si è formata una community vivace che fa controinformazione e discute in maniera costruttiva e rispettosa degli argomenti più svariati, dai più seri ai più futili. Di fake news, intolleranza, atteggiamenti offensivi o denigratori non c'è mai stata nessuna traccia. Insomma, si sta benissimo. La quotidiana riappropriazione degli spazi digitali è la migliore arma per combattere le idee di odio, la manipolazione delle informazioni e la profilazione invasiva. È tempo per chi ha a cuore la libertà di abbandonare Facebook e aprire un account su un'istanza Mastodon o segnare conoscenze e dar vita a un nuovo nodo. La storia insegna che chi censura è destinato a soccombere. Speriamo. Sì, sono molto ottimisti, no? Sì. Anche sul fatto che si stia benissimo. Sono molto, molto ottimisti. Purtroppo, io in Indimedia me la ricordo anche piena di cazzate, ma comunque, insomma, diciamo che io personalmente, insomma, non penso che sia la soluzione ad ogni male, ma sicuramente è una riduzione del danno per i tossici di Facebook che può essere interessante. E quindi sicuramente ci va di proporvela e tra l'altro la butto lì il 6 ottobre, sabato 6 ottobre in Polveriera ci sarà la presentazione a cura dell'E-Club, del nuovissimo E-Club di Firenze, la presentazione del nodo bolognese di Mastodon, appunto, ovvero degli autori di questo comunicato. Quindi insomma, se volete saperne un po' di più, capire di cosa si tratta e parlarne un po' con loro e con l'E-Club di Firenze, potete passare prima di cena in Polveriera e poi insomma nel corso delle settimane su Radio Wombat vi spiegheremo meglio i dettagli, immagino. Ricordiamo autobus 23 17 1, se non sbaglio, 14, fermata a Santa Reparato o San Zanobio, anche a piedi, dipende, siete in periferia forse l'autobus vi fa comodo. E fermata o San Zanobio o Santa Reparata a seconda della direzione da cui arrivate, si trova al piano di sopra sul chiostro della mensa universitaria. Esattamente, e con questo direi che abbiamo finito, vi lasciamo con un brano musicale e poi vi diamo appuntamento alla prossima puntata della rassegna stampa settimanale del Wombat, che è lunedì prossimo, non con noi ma con un altro gruppo di wombati e wombatesse. Con questo vi salutiamo e al prossimo mese. Ciao ciao! Adios. He makes me say things I don't wanna say. And even though I wanna break away, I can't stop saying I adore him. Can't stop doing things for him. He's got